Allora, io do intanto il benvenuto ai nostri ospiti, a Bruno Franceschini che accompagna Eleonora Goio. La conoscete, l'abbiamo già incontrata parecchie volte qui al Trevi e anche nella nostra vecchia sede, se non sbaglio. E la seguo anche su Facebook. È una viaggiatrice eccezionale, ma soprattutto è anche una donna che ha, per me è un modello. Perché sa essere protagonista della propria vita, affrontare il bello e il difficile che la vita ci riserva. La ringrazio anche perché ha messo a disposizione di tutta la comunità, in questo senso è una comunità molto ampia, la propria esperienza e la propria creatività. Fa tesoro di quello che vive e poi ce lo regala attraverso anche i libri. Questo non è il primo libro, vero Eleonora? È il sesto, ecco. E quindi la seguiamo perché, oltretutto, essendo originaria di Bolzano e avendo vissuto qui a Bolzano per parecchi anni, è conosciuta ed è quella che noi definiamo una testimone della nostra comunità, del nostro territorio e ci fa particolarmente piacere saperla sempre attiva e operativa, ecco. Quindi, come si diceva prima, purtroppo abbiamo, o per fortuna, abbiamo tantissime iniziative qui al Trevi, quindi nei vari piani si accavallano incontri, ma questo è forse anche il bello di un centro culturale, quello di poter entrare, di andare a vedere cosa succede e incontrare sempre nuove persone, soprattutto incontrare o rincontrare anche autori e autrici come questa sera faremo con Eleonora, che è qui con noi. Le nostre iniziative vengono registrate, quindi poi si possono riascoltare anche dal nostro sito, dal podcast. E poi vi invito anche così a tornare a visitarci in biblioteca perché abbiamo anche la prossima settimana altri incontri, come anche domani, e sempre di taglio anche autobiografico come quello di domani con Mario Rusca. Comunque intanto ci godiamo questa serata, questo ritorno di Eleonora Goio in regione. So che sei stata anche a Rovereto, mi hanno detto che è stata una bella serata. Ecco, e quindi sì, piano piano sei salita fino a Bolzano. Grazie, grazie a voi di essere qui con noi e buona serata. Grazie. Bene, inizio io, inizi tu? No, beh sì, ma non è che ti... il comandante. Allora, intanto grazie di essere qua. Come dico sempre, se non ci fosse il pubblico, fare delle presentazioni è insomma un po' limitante, no? Cioè io scrivo principalmente per me perché è terapeutico, però poi è chiaro che si fa piacere che anche qualcuno legga quello che uno scrive. E tendenzialmente in tutti i miei libri, chi mi conosce, privilegio una tematica. In questo libro, e poi magari ne parliamo assieme anche a Bruno, c'è un pizzico di follia. Nell'altro parlavo della morte, in questo c'è la follia. Vuoi che ti... Allo stato brado, vuoi intervenire o vado avanti? Allora, va. Lei dai, bene. Allora, intanto puoi far partire il video, allora. E ti fermi alla prima immagine, che è quella successiva. Perché da qua riusciamo a vederla? Speriamo. Puoi togliere l'audio, ecco, poi... Ok. Allora, anni 90, questo nel 90, io sono andata nei Caraibi in barca a vela e di lì ho iniziato il mio percorso con la barca a vela, dalla Martinica alle Grenadine. Però era un anno particolare. Io sono nata con questo angioma al cervello, mai diagnosticato fino ai 50 anni. Quindi, di fatto... In quel periodo lì, esattamente nell'89, decidono che una delle diagnosi ipotetiche è che io ero fuori di testa, quindi folle, ed è per quello che in questo libro un po' accenno alla follia. E divento dipendente da psichiatria, cioè divento una paziente psichiatrica, anche se non nel reparto, ma negli ambulatori di psichiatria. E per 2 anni sono sotto psicofarmaci, quindi insomma un periodo abbastanza buio, pesante, che descrivo più che altro solo nel prologo del libro, volutamente anche perché non volevo dare un taglio medico a questo libro. Quindi è lo spunto per partire con la barca a vela. Mi salva la vela perché un mio collega di educazione fisica decide che quell'anno, nel periodo del Natale, lui avrebbe fatto 2 settimane ai Caraibi e mi dice, visto che sei così male, forse andare via, farti un viaggio così lontano, può esserti di aiuto. E così io parto nel 90. Siamo in due barche di una flottiglia, insomma in 8 per barca, sono in 16. E mi rendo conto che non avendo il giudizio e non essendo una giudicante quei luoghi, perché sono luoghi in mezzo alla natura dove nessuno ti dice cosa devi fare, cosa non devi fare, come invece la società occidentale, almeno in quel periodo, la sentivo particolarmente pressante e stavo veramente male. Nell'arco di, penso, un paio di mesi ho messo su tipo 10 kg, 15 kg e poi avevo allucinazioni notturne. Oltre che incubi, insomma, una situazione molto pesante. E dopo quell'esperienza capisco che comunque posso, d'accordo ovviamente con lo psichiatra, di scalare i farmaci. E questo è il mio primo passo con la barca a vela. Quindi la vela nel 90 mi salva dalla follia. La prima rinascita. Ti lascio anche parlare se vuoi. No, perché sennò sei qua. Grazie, vabbè, però puoi intervenire, dopo puoi andare avanti con il video. Allora, il ragazzo che vedete, no, ecco, questo ragazzo qua, per esempio, adesso se vuoi fermarlo un attimo, se no è lo stesso, lo conosco ai Caraibi, è un ragazzo ovviamente che era arrivato col famoso casco di banana in piroga, e decide che secondo la sua teoria avrei potuto essere la sua compagna ai Caraibi. Ovviamente ci parliamo con lo sguardo, diventa una giornata dove in effetti comunichiamo solo nuotando e facendo il bagno insieme, ma i miei amici mi dicono, ma se vuoi ti lasciamo qua, visto che eri già in crisi con l'Occidente, se vuoi ti lasciamo qui ai Caraibi. E capisco che il mio futuro sarebbe stato fare le collanine con le perline, le conchiglie, le perline, e poi pescavo, avrei potuto pescare con lui con le lenze, con i fili di nylon, e inoltre l'ultima cosa che potevo fare era appunto vendere caschi di banane con le piroghe ai velisti. Quindi decido che forse non era proprio quello il mio futuro, rientro anche perché penso per motivi anche di responsabilità. Avevo vinto da poco il concorso a scuola e poi i miei genitori non erano poi così giovani, quindi insomma torno per altri motivi anche. E qui inizia, e qui intervieni anche tu, eh? Questa è la nostra barca. Acquistiamo il 2002 Mercurio, che è la barca che vedete in fotografia. Se vuoi... Veliero di 25. Dai, fai. Un veliero di 10 metri e 20, quasi per scommessa, perché in realtà, ma penso che no. Abbiamo acquistato, un collega mi chiama, mi dice, se vuoi, so che tu hai la passione della barca a vela, ma non la puoi concretizzare, se te vuoi puoi venire a vedere una barca a vela in Toscana e lì che ti aspetto. No, non me lo posso permettere, da buon altoatesino, no, legato alle montagne. No, tu vieni, se no mi offendo, perché vorrei lasciare questa barca. Un colonnello in pensione di memoria, però insomma 2002, sì. Puoi andare avanti se vuoi con il... E qui vado avanti col video e quindi... Quindi vedete come l'avevamo arredata. Ah no, qui sono le foto di Settimana Azzurra, di cui parlava prima, che eravamo in flottiglia. Queste le ho prese da... Esatto. Le foto con i ragazzi, che andavamo in barca a vela. All'interno della tua barca. Adesso è la mia barca, ma quella era la nostra. Allora, 2002, ovviamente lui diventa anche il mio compagno, quindi non era solo il compagno di... Forse lo dovrei dire io, visto che è finita, però vabbè, lo stesso. E quindi diventa il mio compagno di vita e anche di barca, di avventura. E nel 2002 così era arredata. E vedete, è una barca praticamente molto spartana, non ha cabine, non ha frigo, non ha docce, non ha... Ecco, qui stavo un po' meglio, eh? E, no, insomma, praticamente è molto spartana. E nasce da regata questa barca. E non ha riscaldamento, e insomma, non ha l'acqua calda, insomma, è veramente un po' quasi un campeggio nautico, se vogliamo definirla. E vedete come cambia. Questo è il cambio che ha voluto la nuova compagna di Bruno. Allora, precisi, io sono molto diretta, quindi vabbè, chi vuole. Allora, chi leggerà il libro? No, scherzo, no. Chi leggerà il libro, insomma, capirà che ovviamente nel frattempo ci sono stati un po' di cambiamenti nella mia vita. Allora, io ho avuto la vela mi ha salvato 3 volte. Allora, da quello della follia, vi l'ho detto prima, vabbè, poi ho perso un figlio e la terza volta dalla disabilità. Nel senso che nel 2010 ho un intervento al cervello e a quel punto divento disabile, non pensando più di poter tornare in barca. Nel frattempo finisce la nostra storia, non spieghiamo il perché, e quindi eccolo qua. E quindi niente, alla fine... Sì, sei il primo che sei salito a bordo dopo. E per cui per 8 anni io faccio altro nella vita. Dal 2010 al 2018 io decido di fare progetti sulla disabilità in montagna. Quindi porto le persone disabili in montagna con una Jolette, che ha un ausilio per accompagnare le persone disabili in montagna. E nel 2019, a mia insaputa, mi chiama Bruno dicendo: sto vendendo la nostra barca, che ormai era sua, perché l'avevo venduta ovviamente nel 2010. La mia quota l'avevo ceduta perché pensavo di non poter più tornare in barca. E mi chiama, e secondo me con un po' di sensi di colpa forse... La mia vita è piena di sensi di colpa. In quell'occasione lì l'avevo già venduta a un toscano, anche un precisino, uno che insomma, al quale non l'avrei venduta volentieri, ma non per questo ho chiamato lei. A un certo punto rifletto, ogni tanto rifletto, e dico: ma devo avvisare Leonora, perché per forma anche di rispetto e reverenza voglio dirle che la vendo, ma senza nessun secondo fine, perché mai e poi mai avrei pensato che lei avrebbe poi detto: no, la voglio comprare io, non la vendere. Io praticamente l'avevo già in parola con questo signore qui, e, no, io ti do la stessa cifra, devo anche raddoppiare, e l'avrebbe comprata. Non penso, guarda, non mi conosci bene. No, insomma. Candidamente lei mi disse: non la compro io. Ho detto: ma sei sicura? Guarda, e infatti i miei sensi di colpa sono anche un po', poi dovuto un po' a questo, perché poi saperla in mare con questa barca, che è una barca da diporto, quindi da uscite giornaliere, piccole crociere, e sapere che lei invece è un'avventuriera anche un po' folle, ma visto che mi avevano già considerato folle, ho detto: va bene. Insomma, avevo molto timore, appunto, invece lei si è buttata a capofitto. Vi dico che 10 minuti dopo mi ha fatto il bonifico, cioè sono rimasto. Con l'altro ho dovuto litigare, perché ma è stato meglio così. Puoi andare, adesso partiamo. Sì. Allora, arrivo al 2019, quindi mi ricompro la barca, e adesso vedete in queste immagini il periplo dell'Italia. Per cui da Marina di Carrara, dove appunto Bruno mi ha aspettato ed è stato il primo passaggio del testimone, per cui ha fatto con me il pezzo da Marina di Carrara a Viareggio e poi pian piano ho imbarcato alcuni amici. Questo per esempio è Nino, che è quello che mi ha rifatto risalire in barca, perché io per 8 anni non sono mai andata in barca a vela e ovviamente mi ha detto: prima di comprarti una barca almeno prova a capire se riesci a stare anche in equilibrio, perché non è semplice. E questo è Flavio, è mio figlio, è un altro skipper, futuro skipper spero però. E questo è Flavio che ogni volta mi raggiungeva appena poteva, perché lavoravo in quel periodo in Toscana, poi mi andava. Col fatto che lavoravo in Toscana e la barca ha fatto prima tutta la zona del Tirreno, era chiaro che era comodo per me e anche per lui raggiungermi. Nei weekend arrivava, ogni weekend per 4 settimane si è fiondato sulla barca, perché lui l'ha vissuta per 6-7 anni la barca, ha fatto anche un corso di Optimist, di derive, quando io avevo appunto con Bruno la barca, e quindi insomma l'idea di tornarci per lui era appassionante. E poi a un certo punto però ho detto: ho finito gli amici e le persone che conosco, chi imbarco? Mi sono messa in una chat di vilisti e questo è uno dei tanti che ho imbarcato. A Salivoli mi si rompe la barca e inizio a cercare gente. Questo è un professionista comunque, io ogni tanto ho pagato anche qualcuno, perché nel frattempo la patente nautica mi era scaduta e non potevo rischiare io come disabile di permettermi di, insomma, non solo mettere a rischio la mia incolumità, ma anche chi dice stava a bordo e anche dell'imbarcazione. Questo è un professionista con barche di altissimo livello, quindi se non sono, mi sembra, 1.000 o 2.000 euro al giorno pagano. Lui ha un super Maramu, è un Amel super Maramu, quindi mi diceva che chi poteva permettersi le barche erano o magnati russi o ebrei di, insomma, magnati, insomma, si dicono magnati di russi, non ho idea, gli ebrei, gli oligarchi, no, i russi, ma gli ebrei non ho idea, però insomma avevano il kosher a bordo, mi diceva queste persone. E lui invece si diverte un mondo con me, perché dice: non ho nessun vincolo con te, anzi la nostra è una vacanza molto lenta, una crociera tranquilla, e mi porta in giro fino al sbarchiamo a Marina di Nettuno. Quindi facciamo tutta la parte della parte alta del Tirreno e arriviamo appunto a Marina di Nettuno, dove imbarco un altro amico comune. Vedete un po', le condizioni del mare non sono sempre ovviamente le migliori e inizio a capire che insomma navigare in acque un po' agitate non è proprio così una passeggiata, perché tutto sommato noi abbiamo fatto, vabbè, la Corsica un paio di volte, il periplo della Corsica insieme, Elba, la Capraia, tutto l'arcipelago toscano, però sapere di fare la giro intero dell'Italia. Poi ho detto: non faccio lo stretto di Messina, faccio proprio tutta la Sicilia a quel punto, quindi Eolie, Egadi e tutta la Sicilia. Ecco lui, e questo è l'ultimo sorriso che mi ha lasciato, il suo genome adesso, vabbè, mi verrà in mente, e imbarco poi altre persone. E questo è Franco, che è un amico comune. Di nuovo Flavio mi raggiunge appena può, ogni weekend mi raggiungeva. E pian piano va avanti questa avventura. E nel libro è proprio eccezionale questa parte, perché questi avvenimenti si susseguono in modo incalzante, c'è questo avvicendamento continuo con piccoli incidenti ma anche piccole soddisfazioni, piccole liti ma anche redenzioni, cioè è sì, veramente una, cioè, la parte centrale, adesso non per sminuire il resto, ma insomma portava alla memoria l'esatto particolare, il momento e tutto quanto. Cioè io come se avessi vissuto con lei queste settimane, che sono state quasi quattro mesi, e veramente per me è stato emozionante proprio ritrovare quei luoghi, quegli spazi angusti, oleosi, sì, sporchi a tratti. Barca a tratti, non leggendo il libro, perché perché durante questa avventura ogni tanto ci si sentiva, sì, perché ovviamente aveva bisogno magari di consulenza, perché lo skipper non sapeva trovare magari, no, qualche cosa che si cercava, e quindi insomma telefonate anche serali, sì, si è rotto questo, quindi, devo... Chiaro. Quindi mi sono pentito in quel momento veramente, ho detto, se succede qualcosa io non me lo potrei mai perdonare. Ma sei sempre in tempo, perché io sto andando sempre più in là, come, no, non come punto, rischi, però sì, sì, punto, ho anche molta più esperienza, la sì. Ormai conosco molto bene la barca, poi ci navigo tantissimo. La barca, sei diventata un'abile marinaia, sì, da cui si capisce anche, e quindi mi sono un po' tranquillizzato, ecco. Sì. No, è carino secondo me il libro, perché nel periodo del lockdown, oltretutto, ho chiesto a chi appunto mi ha accompagnato nel viaggio di scrivere anche le loro impressioni, quindi è un alternarsi tra la mia voce e quelli che sono saliti a bordo con me, non tutti ovviamente, perché alcuni, un paio, uno era partito per l'Arc, un altro era andato in India, insomma, ecco, un po' li ho persi in quel periodo, però ecco, alla fine questo libro è un po' un coro di voci, perché appunto oltre alla mia visione c'è anche parte di chi mi ha accompagnato in questo viaggio. E adesso ho perso il filo di vedere se c'è, qui sono ad Agropoli, perché poi io ovviamente, al di là, dopo che ho scritto il libro, sto girando da ottobre in tutta l'Italia a presentarlo questo libro, e sto rivedendo anche i luoghi che ho visitato in barca, quindi appunto a dicembre ero ad Agropoli, e quindi ho rivisto ovviamente in situazioni differenti questi luoghi che avevo circonnavigato. Questo è Franco, che è un amico comune di un'amica che qui oggi non c'è, pensavo che venisse, ma è lo stesso, e me l'ha passato, diciamo, lei. Lui è uno che ha comprato 4 barche, è una persona che è già molto esperta di barche, e mi ha accompagnato in 2 parti del viaggio. All'inizio, da Marina di Nettuno, dove ho lasciato il ragazzo professionista, fino a Cetraro, e poi mi ha raggiunto poi in autunno da Bari fino quasi a San Benedetto del Tronto. Ecco, la storia del cane è unica, perché praticamente a un certo punto io, sempre su questi velisti in chat, intercetto questo, che poi non ha voluto che mettesse il suo nome nel libro, mi ha fatto mettere uno pseudonimo. E a un certo punto vedo che nella sua chat mi manda una foto con questo cane mentre prepara le valigie. Dico, boh, e mi dice, dai Happy, ti porto a passeggio, ti porto in vacanza. Dico, boh, forse ho capito male io, allora lo chiamo. Dico, ma scusami, ma il cane dove va? No, non ti preoccupare, sono calabrese. E quindi lo lascio ai parenti. E io dico, vabbè, allora mi tranquillizzo, e così. Arriva a Marina di Cetraro, che è all'inizio della Calabria, ed era più o meno poco prima di Ferragosto, e giustamente la cugina ha detto, ma ascolta, secondo te tu arrivi oggi, e secondo te io oggi ti prendo il cane, io ho già le mie ferie pronte, quindi te lo porti dietro. Sembra simpatico. È simpatico, è molto più simpatico del proprietario, per cui mi sono divertita. Poverino, era la prima volta che saliva in barca, per cui ha vomitato i primi giorni, e poi però si è divertito un mondo, più il cane secondo me del padrone, perché era un personaggio un po' strano, e divertente sicuramente, ma ogni tanto anche irascibile, e non so se era un... vabbè, non vorrei definirlo, tanto io sono passata dalla psichiatria, quindi anche lui era un po' up and down, e usciva sempre con la scusa del cane, che doveva avere delle esigenze fisiologiche, e poi secondo me erano le esigenze del padrone, per cui tornava magari tranquillo, partiva tranquillo e tornava incavolato, oppure partiva incavolato e tornava allegro, quindi andava a bere, fondamentalmente beveva e fumava quando non era in barca, e ci sono un po' di episodi anche divertenti, perché a un certo punto molto divertenti, perché dovete sapere che Leonora ama stare in mare anche di notte. Ah, sì, chiaro. difficilmente entra in porto, se non proprio in situazioni in cui insomma il tempo è pessimo. E quindi ha fatto questo poveretto, è stato 4 giorni in rada. Una settimana in rada. Sì, anche perché giustamente il cane doveva andare a scendere a terra ogni tanto, e quindi ogni tanto dicevo vabbè tu vai che io rimango qua tranquilla, così mi godo il relax e la tranquillità. Insomma, abbiamo avuto 2 o 3 episodi pesanti, ma insomma anche divertenti, poi ci abbiamo anche riso sopra. E qui sono nel nord della Sicilia, abbiamo appena finito le olie, quindi abbiamo visto cefalute, rasini, e poi abbiamo fatto la zona del nord della Sicilia per poi arrivare alle Egadi. E premetto che non so, non avevo nessuna strumentazione elettronica il primo anno, non pensavo di essere di partire per la barca, per cui scopro di non avere neanche più né il Portolani di quella zona né carte nautiche. Sì, noi eravamo sempre stati in zone alte, così in basso, perché bevo un po'. Poi lei odia l'elettronica. No, io proprio. Sì, infatti, ma perché non avevo niente, il telefono, all'epoca avevo ancora un vecchio Nokia, per cui non avevo nessuna applicazione, e abbiamo ripreso la tavola, diciamo il carteggio con compasso e carta per capire il punto nave, e non so se qualcuno se ne intende, però ecco, un po' è quello. Navigazione con i punti cospicui si intende, quindi guardando dicevo, beh, questo qua secondo me dovrebbe essere il monte, e quindi guardavo sulla cartina con i rilievi e dicevo, dovrebbe essere quello il Capo d'Orlando, allora dopo abbiamo questo, poi abbiamo quello, poi abbiamo quell'altra insenatura, quell'altra baia. E niente, qui stiamo arrivando a Marsala, qui ho avuto un'altra persona poco piacevole che ha approfittato di me. Approfittato no, nel senso, in quel senso, però nel senso che ha approfittato perché gli ho lasciato in consegna la barca per un mese pensando che dovesse fare dei lavori a regola d'arte, e poi si è fatto pagare. No, questo era un ragazzo molto bello che si è innamorato di Sara. Qui siamo alle Egadi e imbarco di nuovo gente che non conosco, quindi arriva questa ragazza che è un medico di Emiliana, però che viveva a Catania, ho detto ah, ho visto che tu cerchi qualcuno per le Egadi, non l'ho mai visto, mi imbarco. E poi ho trovato quest'altro ragazzo che era di Palermo, che si è imbarcato con noi e abbiamo fatto le Egadi, bellissimi tutti e due. E nel frattempo io seguo chi è rimasto con me a bordo, e lei dopo di me, e dopo essere venuta con me nel 2019 è tornata nel 2020 in Croazia. E poi ha conosciuto quello che è diventato da pochi mesi il suo marito e ha fatto il giro del mondo in barcavela. E quindi ogni tanto incontro queste storie e avventure incredibili, così come il tipo del cane, e gli ho fatto delle referenze, nonostante i casini che mi abbia fatto. Ha fatto l'ARC, ha fatto la traversata atlantica lo stesso anno, ha mollato il lavoro e adesso fa charter. Quindi poi comunque molta gente ha cambiato proprio vita, dopo che non penso che dipenda da me, però sicuramente chi si appassiona alla vela è difficile che poi la molli. Io quasi una dipendenza quasi alla fine. E per cui ecco, qui stiamo girando le Egadi, c'è una zona che è interdetta alle barche a vela, per cui le puoi fare solo appunto o col motoscafo o con questi barconi. Sono zone protette perché è parco nazionale, però è magnifica. Chi non ha visto le Egadi è uno dei posti che consiglio a tutti. Bellissimo. Torna di nuovo Flavio e in questo caso mi ha raggiunto per 10 giorni, ha fatto le sue vacanze estive con me e ha fatto da Marsala fino a Taormina quasi. Qui è appunto, vedete che insomma, anche c'è la vela colorata, non so se qualcuno conosce, quando c'è il vento che viene da dietro, quindi un vento portante. È un jennaker che si gonfia con venti leggeri di poppa. E quindi ecco, e in questo caso poi ho intercettato anche una persona che non dirò chi è dei due, che mettendosi in chat ovviamente trovi anche gente che ha un'idea un po' diversa dal fatto di venire a bordo con te solo per aiutarti. Quindi metto, io non voglio nulla in cambio di sesso. Quindi ho trovato anche qualcuno che si è proposto in cambio di sesso, ed è uno che poi vedrete, ma non dirò quale dei due sia. Vedete che appunto le condizioni meteo non sono sempre le migliori. Qui abbiamo trovato un vento abbastanza teso, vento forte, onde, mareggiate, e ci siamo ridossati a Marina di Ragusa. Poi abbiamo avuto un po' di problemi al motore, insomma, ecco. Poi la barca, la vedete, è molto piccola, non è che ha questa grande struttura velita. Questa è Ragusa, Ragusa Ibla, no, o forse no, adesso no, ancora non siamo arrivati, forse. Se avete domande, fate. Una barca bolzanina, perché sì, è vero, anche i precedenti proprietari. Prima di essere nostra apparteneva a un colonnello dell'esercito di Stanza, qui a Bolzano, che l'aveva in società con un medico dell'ospedale primario, di Bolzano, un dirigente. E quindi è rimasta una barca altoatesina, se si potesse mettere la bandiera. No, io non penso proprio, anzi ho cambiato bandiera da quest'anno. Ho messo la bandiera polacca, metterò la bandiera polacca. Qui è Marina di Ragusa, è un posto altrettanto bello, bellissimo, del sud della Sicilia, per chi non la conosce. E pian piano faccio appunto, finisco il giro della Sicilia e mi devo fermare, gioco forza, vedrete le condizioni meteo, ecco qua. Sono Ortigia, che è la Siracusa, che è un'altra città bellissima, incredibile. Ecco, vedete il mare che era veramente tempesta, piena, e quindi mi chiedo aiuto alla capitaneria di porto e rimango ormeggiata 5 giorni in porto. E hai avuto difficoltà a trovare il posto nei porti? Allora, la barca è piccola, per cui no. È chiaro che io, come diceva giustamente lui, io normalmente non vado in porto, rimango in rada e dentro solamente in condizioni proibitive. In questo caso sono dovuta entrare. Uno di questi due si è proposto, ecco, non vi dirò mai quale. Tanto non vi dirò neanche i nomi, quindi si dice come è, si dice il delitto e non il delinquente, non ho idea. Esatto, questo è il mercato di Catania, che è bellissimo, il mercato del pesce. Sono riuscita per la prima volta, credo in vita mia, a alzarmi alle 5, perché solo in quegli orari lì riesci a vedere com'è il mercato del pesce e alzarti per vedere le contrattazioni e tutto quello che è la vita animata del mercato. E poi mi sono fatta anche la Circumetnea, che è bellissima. Quindi il giro dell'Etna via treno. Ecco, qui c'è un cambio di nuovo di equipaggio. Questo è un mio amico che avevo conosciuto in una regata al Conero, perché appunto uno dei miei amici che mi ha convinto a tornare in barca era uno che faceva regata. Ovviamente io non ho mai fatto regate, però ecco, avevo conosciuto Sam, che è venuto per 5 anni di fila con me. Ed è una persona splendida, si è costruito una barca da solo, in 6 anni ha costruito una barca insolita in legno, fa anche regate, ovviamente non è particolarmente velica la sua barca, è pesante, e qui intercediamo i famosi clandestini. Un po' accenno anche a questi, perché chiaramente quando passi nelle zone calde del Mediterraneo ho avuto 2 volte l'avvicinamento, una volta in elicottero e una volta con la guardia costiera, perché pensavano che io portassi migranti, perché navigando in condizioni abbastanza estreme, e soprattutto in un periodo tipo ottobre-novembre, chi pensano che sia qualcuno che va in giro in quelle condizioni? Quindi hanno pensato che io potessi avere sotto coperta qualcuno di clandestino. Ecco, e quindi lì invece abbiamo intercettato veramente una barca di clandestini, ed erano questi 3 ragazzi che escono meglio, li mandano allo sbaraglio e arrivano. A volte non arrivano proprio, ma insomma in quel caso sono arrivati a Rodigo Arganico. E niente, adesso siamo già alla fine della Puglia, sto risalendo, a questo punto faccio lo scapolo la Sicilia e risalgo lentamente la costa adriatica. E poi ci sono delle immagini anche surreali, a volte sono mie, Tra le passioni. Sì, sì. C'è anche la fotografia, sì, è vero. Sì, secondo me sono abbastanza belle, non tutte, a parte che ho dovuto fare una selezione di fotografia, ovviamente. Ecco, e Sam è uno che, appunto, oltre che essere un bravissimo velista, è uno che è bravissimo con le mani, quindi ogni anno viene a fare anche la manutenzione con me. Quest'anno è la prima volta che mi dà un po' buca, ma perché ha problemi familiari, quindi accetto ovviamente che la gente non è che debba essere condizionata dalla mia vita. Torna Franco, mi raggiunge a Bari, mi sembra, sì, Bari, questo è Trani, che vista dal mare è un incanto, veramente. Se la vedete da terra non è la stessa cosa che vederla dal mare, è totalmente un'altra cosa. Io non so se tu hai fatto il giro anche dell'Adriatico, e vedete che già qui siamo a ottobre-novembre, il mare è sempre più impegnativo, si è sempre più difficile da navigare, e in effetti alla fine è un po' a rischio. Una delle ultime navigazioni per raggiungere in tempo utile Marina Dorica, dove io adesso abito vicino ad Ancona, ho scelto di navigare in due giornate che erano abbastanza proibitive. Anche a Pescara arriva questo ragazzo che vedete con questo bel sorriso, e dopo che gli dico che io navigherò anche in condizioni molto pesanti, non vedrete foto perché a quel punto lui è stato male, ha vomitato quell'unico giorno che è stato con me, e io ho comandato la barca da sola, ho governato da sola la barca. E questo, sì, e questo è il tredicesimo, e non gli ho detto che era il tredicesimo, ho detto magari è superstizioso, non sale. E lui è una persona che invece vive tutto l'anno in barca. Ha trovato la sua compagna sul pontile, lei abitava in barca, lui altrettanto. Alla fine hanno venduto le due barche e ne hanno comprata una sola. E si chiama Futura, e adesso fanno charter insieme. Ecco, questa è la prima rotta. Sì, la prima rotta è quella del 2019. Quindi, come avete visto, è stata abbastanza lunga, ma molto interessante, sicuramente con tanti aneddoti, tante cose anche divertenti, e soprattutto ho iniziato a vedere gente che non avrei mai pensato di conoscere, perché è chiaro che non avendo così tante persone che vanno in barca e che hanno così tanto tempo come me, è ovvio che insomma non è facile, e ho dovuto avvalermi di 13 skipper. Questo è il primo viaggio, questa è la prima rotta del 2019, quindi partenza da Marina di Carrara, arrivata ad Ancona. Io ero tutta entusiasta, ho detto bene, adesso la barca ce l'ho qua tutto l'anno, vicina, senza dover fare migliaia di chilometri. Invece vado a dicembre, a gennaio, a febbraio, e poi c'è il lockdown. Per cui io, pur essendo una che va solo anche per dormirci in barca, quindi non ho bisogno di fare chissà cosa, perché mi piace proprio stare in barca, devo rinunciarci per 4 mesi. Ecco qua, vedete com'è la forma della barca, è molto appunto affusolata, molto velica, ha una poppa tagliata, una prua molto allungata, e quindi tiene molto bene il mare, almeno questo io ho capito dopo tanti anni che navigo. Ecco, 2020 decido di fare ancora un cambio di rotta, nel senso che parto da Ancona e nel 2020 isso la bandiera della pace. Vedete, questa è la bandiera della pace, perché secondo me, lo dico nel libro, per me Mercurio dovrà diventare messaggero di pace per due motivi. Uno, per riappacificarci un po' con il mondo, tra Vax e Novax, che sono stati una divisoria e una frattura, secondo me, molto forte. E due, perché secondo me il mare non deve avere confini. E quindi se ce li ha geografici via terra, per mare non deve averli. E questa è un po' la mia prospettiva nuova dal 2020. E imbarco, inizio ad imbarcare anche solo donne. Quindi questa ragazza che è venuta per un giorno, adesso non la vedete, insomma è passata prima, e mi ha detto, dai, posso venire un giorno con te così provo? È scesa dopo 10, sempre con lo stesso vestito, perché era venuta per farsi mezza giornata ed è scesa a grado. E poi quest'anno, l'estate scorsa, è stata 2 mesi con me in barca. Ovviamente in questi 3 anni lei ha fatto un salto incredibile, è diventata bravissima, mi ha tolto veramente da tanti problemi di forte vento, e lì c'è di nuovo Nino che mi ha raggiunto. Quindi ci sono persone che vengono da 3-4 anni con me. Questo è un altro ragazzo che fa anche lui progetti di vela solidale, questa è una psichiatra di cui avevo bisogno, no scherzo, l'ho rivista a Milano. E insomma, ecco, c'è tanta gente che poi diventa una grande famiglia, tornano, anche lui è tornato altre 2-3 volte, e qui sono le incoronate, e qui c'è di nuovo Sara, che è quella che poi ha iniziato a fare il giro del mondo. È chiaro che oltre che in barca vado... No, è sempre qui, ma poco l'ho... Sì, sentiti... Non penso, ho iniziato un romanzo adesso. E quindi, no, dopo un po' sì, potrei scrivere 4 libri di vela, ma forse non è stimolante per me, ho bisogno di nuovi stimoli, di nuove sfide. Qui ho fatto la traversata, ecco, questa è la famosa ragazza Rosy che mi segue da 4 anni ed è diventata una bravissima velista partendo da zero, nell'arco di poco tempo è partita da zero ed è arrivata da ottimi livelli. Lì ho imbarcato 2 ragazzi, quindi eravamo in 4, per la prima volta in 4, che normalmente più di 1, massimo 2 non porto, e ho fatto la traversata dell'Adriatico. Quindi abbiamo fatto sia in notturna che in diurna, da Ancona la Croazia, dalla Croazia di nuovo Ancona, e poi ho fatto fino a Bari, perché poi la barca l'ho lasciata a Bari alla fine del 2020. Questa è tutta la parte della Croazia, ho fatto anche lì 3-4 mesi, 2020, sono partita, mi sembra, a giugno, eccola qua, questa è la seconda rotta. Quindi vedete, sono partita da Ancona, sono andata a Trieste, ho fatto tutte quelle isolette che vedete citate nella cartina, ovviamente non si potevano vedere in maniera dettagliata, però ho fatto tutta la Croazia fino in fondo. E quell'anno avrei voluto fare anche Montenegro e Albania, ma col Covid, il 2020 la Croazia è stata dichiarata paese Covid e non potevo passare negli altri paesi. Quindi ho deciso di scendere e sono arrivata fino a Bari. Ho lasciato la barca a Bari. E non è come lasciare un camper che te lo metti al parcheggio? No, sì, no, infatti. Certo. Insomma, mica tanto. Sì. Ci vuole qualcuno che ogni tanto ci dà un'occhiata, e stare via troppo tempo, poi si torna e si hanno brutte sorprese, no? Sì, infatti. E però con Covid anch'io non ho potuto. No, io ho navigato sempre perché ero dall'altra parte dell'Italia, quindi vabbè. Adesso ho fatto poi 2021, questi vedrete gli ultimi 2 anni che ho fatto, quindi 2021 continuo fino a Santa Maria di Leuco e faccio la traversata sulla Grecia. E queste sono le ioniche alte, le diamantine o diapontine, quindi sono quelle a nord di Corfù, per intenderci, non so se qualcuno è mai andato in Grecia. Sono delle isole magnifiche, bellissime. Questo è ritornato di nuovo altri un paio d'anni, è venuto anche Nunzio, e poi diventano tutti amici, di fatto è una grande famiglia alla fine. Io, come vedete, pur essendo un'ex istruttrice di nuoto, bagnina, subacquea, eccetera, devo nuotare col salvagente perché sono epilettica e non mi fido ovviamente a rischiare di rimanere lì, anche perché io ho il problema della... Questa è bellissima, questa è la spiaggia più bella che c'è di Cefalonia, è la parte ovest di Cefalonia, e chiaramente quando c'è una zona sopravvento, dall'altra è sottovento e viceversa, quindi alcuni posti che non posso vederli via nave e via barca, prendo la macchina e giro l'isola. Quindi ho fatto quasi tutte le isole piccole che potevo, le ho fatte anche via terra, con le persone che avevo a bordo. E questo è il percorso del 2021. Quindi ecco, imbarco altre gente, questo è sempre Sam, che è venuto per 4 anni di fila, imbarco altre persone che fanno regate, quindi pensano di fare anche navigazioni abbastanza estreme e anche pesanti, e quindi mi si rompe la vela, qui mi si è rotta una parte della randa. Questa è la zona di Mesolonghi, non so se qualcuno la conosce, è un'isola, tu non l'hai mai sentita. Quindi mi avvicino alla zona del Stretto di Corinto, perché nel 2021 il Corinto era ancora chiuso per manutenzione e alla fine la barca, la vedete fra poco, lascio la barca praticamente al di qua dello Stretto di Corinto e faccio tutte le ioniche e sono una più bella dell'altra, bellissime. Sono almeno 10-15 isole che normalmente si conosce solo Corfù e Zante, sono le più, o Itaca, sono le più conosciute, ma ce ne sono veramente tantissime. Qui passa il ponte di Rion, che è uno dei più grandi ponti d'Europa, e questo è il terzo anno, terza rotta, 2021. E da qui, se vedete, ho fatto appunto la parte sud delle Puglie, poi la traversata sulle Ioniche, che sono quelle più alte, poi vado a fare tutte le isolette delle Ioniche e mi vado a infilare praticamente nello Stretto di Corinto, cioè nel, diciamo, Golfo di Patrasso sarebbe esattamente, poi c'è lo Stretto di Corinto alla fine. Ecco, e poi il libro finisce con il 2022, questa è una rada di Itaca, una baia di Itaca. Itaca è bellissima perché poi rimango appunto, come diceva giustamente Bruno, io non vado mai in porto e quindi puoi stare veramente in posti magnifici, H24, nel senso che io sto lì, dormo in baia, mangiamo in baia, butto giù l'ancora, vedete che acque, cioè i posti sono incantevoli. Questa è Zante, vista dall'alto, perché appunto era zona non raggiungibile causa mare. E a quel punto, invece che fare lo stretto di Corinto, decido di fare il giro del Peloponneso. Quindi mi faccio altri 4 mesi facendo tante isole. E, a parte le 4 dita, l'isola che c'è a sud del Peloponneso, che è Kithira, se qualcuno la conosce. Qui sono a Kalamata, che è famosissima per le olive. Le olive greche vengono tutte da là, da Kalamata. Questa è la Phonissos, che è una delle spiagge più belle in assoluto. Insomma, ecco, i posti magnifici ce ne sono tantissimi. Io non andrei mai via dalla Grecia, sinceramente. Adesso è il 4º anno che sono là. Qui siamo in invasia. I posti sono veramente incantevoli, non solo dal punto di vista velico, ma anche se uno ci vuole andare anche solamente per vacanza, io consiglio la Grecia in assoluto, sempre e comunque. No, non le classiche Mykonos, Santorini, io le eviterei in assoluto, soprattutto a luglio e agosto, però io parto a maggio e torno a fine settembre, quindi ho un po' di vantaggio. Questa è un'olandese che è stata 2 anni con me e adesso si è già prenotata per 1,5 mesi quest'anno, quindi insomma faccio anche fatica a non trovare gente adesso, anzi adesso devo mandarli fra un po' via. E niente, qua pian piano finisce il percorso, ovviamente. Qui abbiamo intercettato di nuovo CSM, questo ragazzo addirittura ha cambiato il volo perché ha detto sto così bene in barca che non ho più voglia di scendere, quindi ha annullato il volo ed è rimasto con noi a festeggiare il suo compleanno. Quindi, insomma, ecco, secondo me la vela a chi piace diventa appunto un po' una dipendenza, una droga, anche un rifugio, un po' tutto. Diciamo la mia seconda vita è tra vela e adesso libri, insomma, però appena posso ripartirei, quindi questo è così. E in questo giro ho fatto invece ecco, se vuoi fermare qui, ho fatto veramente un viaggio lunghissimo, la 4ª rotta del 2022, oltre il Peloponneso ho fatto anche tutte le Sporadi, la Calcidica, che è a sud dell'Attica, non so se riesci a vedere quella prima, ah no? Che poi è finito, vabbè, era solo per farvi vedere un po' com'è la dislocazione delle isole. No, devi solo tornare indietro di 2 pezzi piccolissimi. E eccola qua, vedete, sono partita di nuovo dallo stretto di Corinto, immaginate lì, adesso se tu lo riesci a segnare, io adesso ho questo. Sono ritornata di nuovo sulle Ioniche, ho fatto il giro appunto del Peloponnese, poi ho fatto il canale dell'Eubea, che è un'isola, sì, sono andata dentro il canale dell'Eubea, che è quello lì, che costeggia, arriva fino là sopra, vai su, ho fatto le Sporadi e poi sono andata fino alla Calcidica, quindi lì sono veramente lunghe rotte, sono 70 miglia a botta, vuol dire che stai 12 ore in navigazione grosso modo. Poi ho avuto un problema al motore e sono dovuta ritornare alla penisola Eubea e qui diciamo finisce il libro dal punto di vista della navigazione. Poi ci sono altri 2 capitoli che racconto così a voce, mentre quest'anno, che non vedete nel libro, non lo potete leggere, nel 2023 perché era già in pubblicazione, quest'anno l'estate scorsa ho fatto tutte le Cicladi, quindi sono uscita di nuovo dal canale dell'Eubea, ho fatto a sud, ho fatto tutte le Cicladi e ho fatto una traversata sul Dodecaneso, dove adesso la barca mi aspetta l'Eros e quest'anno ho già fatto un'ipotesi di rotta. E mi avvicinerò alla Turchia, insomma questo è un po' il percorso del 2024, quindi parto a maggio, ho già il volo, l'11 parto di maggio, tornerò a fine settembre immagino, come sempre. E speriamo che ci vada bene. Io sono sempre fiduciosa, non mi preoccupo minimamente, al massimo i problemi si affrontano, questo è un po' il modus vivendi, il mio modo di pensare. Nel libro troverete 2 capitoli a cui ci tengo molto, perché io ovviamente continuo con i miei progetti, sì. Parlo io, parli tu? Nel senso che troverete, io continuo a fare progetti sulla disabilità, per cui in parte sono nel libro, è un capitolo intero su vela solidale e vela terapia e progetti in mare, quindi legati anche alle barche elettriche, alla pulizia del mare, al bene più prezioso che è il mare, e c'è l'acqua, e quindi in qualche modo insomma parlo anche del manifesto dell'acqua. E presentando i miei libri continuo a conoscere nuove realtà, e adesso ho iniziato un progetto per la Regione Marche, come avevo fatto per la montagna. La prossima settimana ho un altro incontro in regione per il disagio mentale. Ho deciso di portare le persone con disagio mentale, visto che in qualche modo lo avevo vissuto io in prima persona più di 30 anni fa. Ho pensato che la terapia per il disagio mentale, il disagio sociale, è assolutamente positivo, e quindi sto collaborando con la sanità della Regione Marche, con dei ragazzi che hanno già appunto comunità, con le comunità e con persone che hanno già iniziato un percorso simile. Tutto qua. Grazie. Se avete domande, sono qua. Allora, è chiaro che finché ero vicino a terra, quindi quando giravo per l'Italia, era molto più semplice, perché lì i porti ce li avevi, eri obbligata cosa a cosa, quindi ogni tanto mi fermavo in porto, e spesso adesso organizzano anche i supermercati, ti portano fino al pontile la spesa. Tu dici, è come un po' la spesa per casa. Un anziano può farsi avere la spesa a casa, in questo caso in barca. Quindi arrivano fino al pontile, poi chiaramente le persone che mi aiutano nelle manovre veliche caricano la spesa per me. Io la sistemo, l'organizzo, e questo è quanto. Ovvio che diventa un po' più complicato quando sono in rada. Ho un tender che metto a disposizione delle persone che sono a bordo con me e dico, voi andate che io mi riposo, perché 4 mesi stare a contatto sempre con qualcuno non è proprio tanto semplice. Quindi approfitto delle persone che vanno a terra a fare cambusa o spesa e io mi rilasso. Oppure guardo già le condizioni meteo, oppure magari guardo, studio la rotta del giorno dopo. Quindi comunque col tender puoi portare avanti e indietro sia la spesa, sì, tipo sì, un gommoncino. E quindi ecco, in quel caso così. Poi io ovviamente non ho il frigo, quindi sai, non c'è tanta spesa da fare, perché io, vabbè, sono diventata anche, non mangio più carne, sono vegetariana, e il pesce invece purtroppo non riesco a farne meno, perché poi spesso nelle rade arriva il peschereccio e dice, vabbè, qualcuno l'ha già ucciso per me e qualcuno lo mangerà. E allora le mie amiche quest'anno sono andate a fare la spesa direttamente nei pescherecci, e poi allora a quel punto mangiamo il pesce fresco. Per quanto riguarda il resto, la cambusa è principalmente verdure che sono di buona conservazione, quindi prendo magari pomodori un po' indietro, cavolo cappuccio, cavolo verza, che ne so, cavolo rosso, le patate e le uova, insomma, alla fine ci si organizza e si capisce anche le esigenze delle persone che hai a bordo. Poi di acqua ne consumo pochissima, perché ho solo 80 litri e quando si è in tre al massimo usiamo una bottiglia di acqua per farci la doccia al giorno. Quindi anche se fai 10 bagni, io, essendo il capitano a bordo, decido che comunque va razionata l'acqua e non si può sprecare. Allora sì, io prendo le bottiglie di plastica, perché è l'unica cosa che sono obbligata a prendere, perché l'acqua è imbevibile, io non ho un dissalatore. E allora quelle bottiglie di plastica le riempio di acqua, poi dolce quando vado nei porti, e quelle sono le nostre docce, una al massimo al giorno. Poi il gasolio, stessa cosa, io vado a vela al 90%, quindi di gasolio ne uso pochissimo, anche con 5-6 nodi di vento io tiro sulle vele, a volte dicono ma noi andiamo a 2 nodi, 3 nodi, vabbè, qual è il problema? Invece che metterci 8 ci metteremo 10 ore ad arrivare a destinazione, quindi io non mi preoccupo, e chi viene alla fine probabilmente si è adattato al mio stile di vacanza o di navigazione. Bisogna leggere prima Vita Valenti, che però l'ho finita, poi li ho già venduti a Torino e a Milano, quindi non ce l'ho qua dietro, ho solamente questo e ho, mi sembra, In solitaria e Mezzaluna rovescia, ancora una copia qua. E basta, il resto, però ecco, ci si organizza perché poi appunto avendo qualcun altro a bordo, allora si delega anche a chi è a bordo, insomma. Poi chi ha voglia di magari scendere a terra, perché la cosa che mi dicono molto, ma la birra fredda chi la beve? Io non posso berla. Allora il tender è una scusa per andare magari a terra a bersi la birra ghiacciata o il bicchiere di bianco ghiacciato, e in quell'occasione si fanno anche la cambusa. Quindi si fa la spesa e si riporta a bordo. Ecco, quello che scende sa che ha un compito anche per tutto l'equipaggio, che poi siamo in due, massimo tre, non è che siamo poi chissà quanti. Quindi sì, alla fine è solo questione, penso, di organizzarsi, e questo è il quinto anno, anzi 2019, 20, 21, 22, 23, e questa è il sesta estate che vado. Quindi sai, dopo sei anni credo che, insomma, sono molto rodata, poi sono quattro mesi, normalmente credo che anche te, che hai la barca da... L'hai comprata nello stesso anno, 2019. Penso che io ho macinato miglia di... In questi cinque anni ho navigato le miglia che gli altri magari macinano in vent'anni. Io ogni volta che vado a fare le presentazioni mi dicono: ma quanto navighi? Io 4-5 mesi cambio ogni giorno posto. Soprattutto se c'è condizioni buone, ovvio che mi muovo. E c'è gente che fa vice da pontile, fa vita da pontile. Vabbè, è chiaro che sono in pensione, no? Sì. Ma non sai che ho trovato... Sì, un po' di più, ma tanta gente che è in pensione alla fine fa vita da pontile, fa vita da così, da società, vita mondana, fa il circolo nautico, fa un po' figo, e poi insomma la vela in Italia è cara, io non potrei più permettermi di tornare in Italia, sinceramente, perché in Toscana l'ultimo anno cos'erano 5-6 mila euro di rimessaggio, cioè posto barca e 6 mila euro, più... fare carena, più fare larina, insomma sono tante cose pratiche e burocratiche che sono veramente a folli. Io pago, quando vado nei porti greci, 7 euro al massimo. In Italia sono riuscito a pagare 100 euro a Procida, cioè inammissibile, e parliamo di 5 anni fa. Quindi quest'anno ho pagato 7 euro in Grecia contro i 100 o 150 chicchi dell'Italia nei porti e nelle marine. Quindi per me è inammissibile. E certo. Sì, allora è chiaro che le foto che ho fatto vedere sono quelle più per me significative e anche molto belle, però come lo scrivo nel libro c'è tantissima cementificazione sulle coste italiane, ma tantissima, e non si percepisce se non navigando a vela, perché la Sicilia, adesso non per parlare sempre della Sicilia del Sud, però è veramente un abusivismo edilizio estremo in posti incantevoli che sono stati cementificati tantissimo, oltre a tantissime raffinerie e zone che dovrebbero essere riconvertite, ma sono apparentemente riconvertite, quindi lo denuncio nel libro questa cosa. Bisogna veramente girarla in maniera diversa l'Italia, perché è tanto bella quanto brutta, dipende cosa uno vuole vedere e cosa non vuole vedere, perché insomma ce la possiamo raccontare, però abbiamo fatto un disastro ecologico negli ultimi 20-30 anni di edilizia abusiva. Per quanto riguarda invece l'aspetto velico innovativo, si parla tanto di motori elettrici, sono ancora abbastanza in via sperimentale, non so se tu ne conosci di più di me. Ho conosciuto adesso un ragazzo disabile che è un Marco Rossato, sta girando per rendere accessibili tutti i porti italiani, quindi io sono in rete con tutti quelli che lavorano nel campo della disabilità e appunto sta cercando di mappare tutti i porti che siano accessibili a gente che è in sedia a rotelle, perché io tutto sommato alla fine cammino con i bastoni, ma ci cammino. Però ho incontrato questi ragazzi, sono due, si chiamano timonieri sbandati, sono due persone in sedia a rotelle che hanno fatto il periplo dell'Italia. E allora a maggior ragione loro stanno denunciando il fatto che non è accessibile il porto per loro. Loro hanno creato un montacarico sulla loro barca, quindi possono alzarsi e abbassarsi di livello rispetto al pontile. E altri, come Andrea Stella, non so se lo conosci, immagino di sì, sta girando il mondo con i reduci di guerra, ed è lo spirito di Stella. Quindi ci sono tante realtà anche in questo campo e che non si conoscono abbastanza. Quindi io quando giro... porto le innovazioni, le nuove tecniche, le nuove frontiere della vela. Poi si passa dalle cose estreme, dall'ecologia pura ai foil estremi o le barche che avete visto, non so chi segue la Global Challenger oppure la Vendée Globe, queste cose estreme dove è tutto tecnologico e l'uomo forse è solamente quello che dà i pulsantini, i comandi. E vabbè, sono sicuramente degli ottimi marinai, degli ottimi velisti, ma non mi appartiene quella cultura. Non ho bisogno di fare sfide estreme, non voglio mettere a repentaglio, la mia barca non sarebbe neanche competitiva in quel caso, però ecco, ci sono tante altre future della vela e spero che sia in condizioni più lenta e non più da regata, almeno questo è il mio intento, perché se vogliamo rispettare la natura, meno inquiniamo l'acqua ed è la nostra forse ultima risorsa, e lo dico, probabilmente la prossima battaglia sarà non più per l'oro, il petrolio, ma sarà per l'oro blu, che è l'acqua, purtroppo. Se non avete domande, credo che potremo... Ah, dimmi Filippo. Ciao. Allora, guarda, sono andata. Sì, allora, adesso ho due romanzi in cantiere, ho iniziato tutti e due. Ho pensato che anche se di vela, come diceva giustamente Bruno, potrei scrivere altri 4 libri, perché ovvio che parlo principalmente della prima navigazione, poi le altre le accenno, perché sennò... Cioè, aneddoti ce ne sarebbero migliaia, ma io non amo ripetermi perché appunto ogni tema, ogni libro ha un tema. Il prossimo è sesso, e quindi, volutamente, perché secondo me è un altro argomento tabù, se ne parla male, se ne parla in maniera o triviale, o superficiale, o pornografica, o così. Quindi il titolo c'è già, perché io parto dal titolo e poi vado a intuizione, Memorie erotiche di una gitana, ed è ambientato nel primo periodo del franchismo spagnolo. Infatti oggi ero qua in biblioteca a iniziare a studiare, perché io quando poi inizio a scrivere studio, fondamentalmente la prima parte è data da tanti libri che studio, anche quando ho scritto quello sull'India, ho letto 10 libri sulla morte, 10-12, perché se vuoi parlare di un argomento, almeno io non pretendo di essere né sociologa né politologa né niente di tutto ciò, però se voglio inquadrare una tema e affrontare una tematica, la voglio anche un po' sviscerare sotto vari aspetti. Quindi ieri ero a Trento, ho iniziato a leggermi un po' il franchismo, perché ovviamente il periodo franchista va dal 39 al 70, e questa ballerina di flamenco vive nel 100 anni fa praticamente, nasce più o meno negli inizi del secolo del 1900, però non vi racconto poi altro perché sennò non vi incuriosisce la cosa. E l'altro romanzo che ho iniziato, e spero che sia più che altro di memoria per mio nipote o per chi verrà dopo di me, è Frammenti di vite passate. E lì è un altro romanzo dove comunque credo che io, il mio cognome venga dalla Spagna, quindi parto dal periodo medievale con le carovane e poi arrivo ai nostri tempi. Quindi sarà un po', non dico i 100 anni di solitudine perché non voglio paragonarmi a lui, però insomma è un percorso storico di memorie e di vite passate che sono quelle dei miei antenati. Grazie.